Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione mette gli altri animali in pole position in ogni tipo di dibattito, quindi cerchiamo gli altri animali nelle notizie di attualità, di cultura, di economia, di medicina, di alimentazione, filosofia, spiritualità e tutto il resto. Questa è la puntata numero 662, nella quale parleremo dei mufloni dell'isola del Giglio, di carovita, adozioni e abbandoni, di fenicotteri allo specchio, del recente e sorprendente divieto di trasporto di animali vivi in Nuova Zelanda, del pesce sega minacciato di estinzione in Costa Rica, del controvalore mucche di Giorgia Meloni e del delfinario di Rimini che è stato riconvertito in un ospedale per tartarughe marine. Non mancheranno una ricetta vegana, cruelty free e tanta ottima musica curata dal nostro Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Dedichiamo questa puntata ai tre giovani scimpanzé rapiti al Jack Chimp Sanctuary di Lubumbashi, Repubblica Democratica del Congo, per la restituzione dei quali è stato chiesto un improponibile riscatto a 6 cifre. Ci uniamo al coro di tutte le persone che implorano i rapitori di restituire i tre primati alla struttura che si stava prendendo cura di loro. Per favore, restituite i 3 piccoli scimpanzé orfani rapiti, perché nessuno pagherà mai il riscatto e perché è un gesto necessario per riparare in parte il male che avete fatto in modo così vigliacco e codardo. Il terrore e lo smarrimento dei 3 piccoli scimpanzé che avevano già dovuto subire la perdita della loro mamma è inimmaginabile. Che questo strazio abbia fine. Invitiamo tutti a seguire la pagina Facebook del Jack Chimp Sanctuary su Facebook. Gli animali pagano sempre salato il conto dei problemi che affliggono l'umanità. Ad esempio, in questo periodo in Italia, uno degli effetti dell'aumento dell'inflazione, della crisi energetica, della guerra, del caro vita, è l'aumento degli abbandoni di cani e gatti. Lo afferma l'ENPA, precisando che dal 1 gennaio al 30 settembre sono 17.585 i cani ospiti nei suoi rifugi e 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline. Anche le adozioni, dice EMPA, sono in grande calo, per non parlare dei casi di violenza e maltrattamento di animali sempre più frequenti, che le guardie zoofile EMPA e i volontari sul territorio intercettano. Nel giorno di San Francesco si celebrano gli animali, ma, diciamo la verità, c'è ben poco da festeggiare. Dopo aver raccolto lo scorso weekend migliaia di firme per la riduzione del 10% dell'IVA sul cibo per animali e spese veterinarie, in occasione della giornata degli animali EMPA 2022, nella giornata di San Francesco l'Ente Nazionale Protezione Animali ha lanciato la stessa petizione in modalità però online sulla piattaforma change.org. Mantenere un cane in buona salute costa circa 120 euro al mese. Quando poi subentrano malattie e problemi di salute, i costi lievitano notevolmente. Solo dall'inizio di quest'anno EMPA ha aiutato 1000 famiglie in difficoltà attraverso il progetto dedicato che si chiama EMPA Rete Solidale. Call on me. E dopo il caro vita, restiamo nell'attualità e parliamo di un uragano, l'uragano che si è scatenato recentemente in Florida. Molti di voi avranno visto la splendida e straniante foto scattata ai Pink Flamingos, cioè ai fenicotteri rosa, nel bagno dello zoo di Miami. Anche gli animali si devono mettere al riparo dalla furia degli uragani e in Florida, per la sicurezza degli ospiti dello zoo in vista del passaggio dell'uragano, sono state studiate misure particolari. Tutti gli animali sono stati messi al riparo, inclusi i fenicotteri, che sono stati spostati in una toilette. Gli operatori li hanno messi in salvo anche perché la zona di Tampa Bay si trovava proprio lungo il tragitto dell'uragano Ian, che poi ha virato verso sud, diventando un uragano di categoria 4, con venti oltre 200 km orari, provocando mareggiate e causando danni pesantissimi a infrastrutture della Florida. Ma quella fotografia a molti ha ricordato un'altra immagine iconica del 1992, quando fu l'uragano Andrew di categoria 5 a colpire il sud della Florida. E uno zoologo scattò la famosa foto allo zoo di Miami, dove i fenicotteri rosa erano rannicchiati in un bagno vicino ai lavandini, che all'epoca finì sulle prime pagine di molti giornali. Vedere quegli animali che si stanno guardando nello specchio fa impressione, ma soprattutto fa capire quanto sia innaturale e assurdo tenere animali chiusi in uno zoo, perché gli animali, quando sono liberi, allo stato selvatico, sanno prevedere l'arrivo delle tempeste e sanno cosa fare per mettersi al riparo. You stay in a lover's story. If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules on what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Yes, we do. Soon you'll grow. Una notizia relativamente buona arriva dalla Nuova Zelanda, primo paese ad avere deciso di vietare l'esportazione di bestiame via mare a partire dall'aprile 2023. È una scelta che è stata giustificata come una tutela del benessere degli animali. La decisione è maturata dopo che nel 2020 una nave che era partita dalla Nuova Zelanda con quasi 6.000 mucche e 43 membri dell'equipaggio si è capovolta al largo del Giappone. Il ministro dell'agricoltura Damien O'Connor ha affermato che la legislazione che vieta l'esportazione mira anche a proteggere la reputazione della Nuova Zelanda come leader globale negli standard di benessere degli animali. Le distanze della Nuova Zelanda dai paesi di destinazione comportano lunghi tragitti in mare e aumentano lo stress da calore e altri rischi. Questo disegno di legge vorrebbe ricreare una verginità alla Nuova Zelanda come produttore sicuro ed etico di prodotti alimentari di alta qualità. Una rinuncia che però, ci teniamo a dirlo, è tutto sommato facile, visto che il valore delle esportazioni di animali vivi via mare rappresenta per la Nuova Zelanda circa lo 0,2% dei ricavi delle esportazioni. Inoltre rimane ancora possibile l'esportazione di animali vivi per via aerea. Tuttavia troviamo che sia un segnale importante. In questo caso è un governo stesso a dichiarare che le esportazioni e i viaggi sono incompatibili con il benessere degli animali. Se avessero l'onestà intellettuale di portare avanti il ragionamento, di portarlo fino in fondo, in realtà il benessere animale imporrebbe di non allevare e di non uccidere. Speriamo che nel tempo altri paesi come la Nuova Zelanda progrediscano nella loro interpretazione del benessere animale. E adesso un episodio che, se non fosse grottesco, sarebbe molto divertente. Alcuni giorni fa il generale ugandese Muhoozi Kainerugaba, comandante delle forze armate di terra dell'Uganda, in un tweet si chiedeva quante mucche potesse valere Giorgia Meloni, la nuova presidente del Consiglio italiano. E si rispondeva che Meloni vale almeno 100 mucche della razza Ancole, una razza molto pregiata che ha un alto valore secondo quella cultura. Le mucche di razza Ancole hanno un mantello marrone scuro e lunghe corna bianche che si incurvano in fuori e poi rientrano disegnando una specie di lira. Sono le più pregiate dell'Uganda ed è Kainerugaba stesso a spiegare: per i miei amici italiani le mucche Ancole sono le più belle della terra. So che gli europei danno alle ragazze che amano i fiori. Io non l'ho mai capito, nella nostra cultura noi diamo una mucca. Si potrebbe parlare per ore di questo accostamento che scandalizza in modo sorprendentemente trasversale. Scandalizza le persone femministe, democratiche, progressiste, perché l'idea di dare un controvalore a una donna significa poterla acquistare o vendere, esattamente come si fa con gli animali. E questo controvalore poi espresso in animali, in bovini, quindi rafforza, secondo i ben pensanti, il senso offensivo e degradante dell'accostamento. La stessa frase scandalizza però anche le persone che possiamo considerare più conservatrici e anche quelle neocolonialiste e anche quelle antifemministe, perché a osare questo accostamento e quella che suona come una proposta di acquisto è un uomo africano, un uomo nero per quanto ricco. A scandalizzarsi infine sono le persone amiche dell'antispecismo come noi, perché di nuovo vengono usati animali come contropartita, come denaro, come bottino, come capitale, parola che ha nella sua etimologia caput, che vuol dire capo, anche capo di bestiame. Noi non intendiamo in nessun modo svalutare la cultura ugandese, perché nella nostra cultura occidentale, europea, in qualche modo democratica, abbiamo tantissime storture, tantissimi aspetti di cui vergognarci. Quello che vogliamo sottolineare è l'aspetto che accomuna praticamente tutte le culture umane, ovvero la possibilità di sfruttare a piacimento gli animali, regalandoli, comprandoli, vendendoli, uccidendoli, allevandoli, cacciandoli, mangiandoli, catturandoli in natura, compiendo orribili esperimenti su di loro in nome di una falsa scienza, facendoli riprodurre a nostro piacimento, inseminandoli artificialmente, selezionando le razze, costringendoli negli zoo, nei circhi, addestrandoli, e potremmo continuare ancora. Nei loro confronti, purtroppo, nessuna cultura umana può ritenersi veramente superiore. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the self-proposed too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Una delle nostre parole preferite è riconversione. Esprime un concetto molto importante, ovvero un cambiamento positivo, un cambiamento dal passato al futuro, dal rischio alla sicurezza. Come molti di voi ricorderanno, questa parola era molto usata quando si trattò di superare le centrali nucleari e le basi militari, trasformandole in attività di utilità civile e pubblica, come per esempio parchi fotovoltaici. E bisognerebbe che questa parola, la parola riconversione, tornasse d'attualità, applicata per esempio agli allevamenti e ai macelli, che potrebbero impiegare i propri dipendenti in poli produttivi di alternative vegetali ai prodotti di origine animale. Prodotti che tra l'altro stanno continuando a conoscere un ottimo indice di crescita nel mercato, diversamente dal latte e dalla carne che invece sono in ribasso. Oggi però parliamo della riconversione di un luogo di schiavitù e detenzione animale, come il delfinario di Rimini, dove per anni sono stati costretti in minuscole vasche dei poveri animali, i delfini, addestrati per fare esercizi innaturali. Questi animali si ammalavano e la loro vita durava molto poco rispetto ai loro simili in natura. E dopo tante traversie e l'impegno di gruppi di volontari molto determinati, il delfinario è finalmente stato chiuso, diventando un ex delfinario, e che pare diventerà un centro rescue per le tartarughe, ovvero un nuovo ospedale per le tartarughe marine, ma anche uno spazio per promuovere la cultura del mare, educare quindi all'amore di questo habitat e di tutti i suoi abitanti. Il nuovo centro recupero potrà contare su 12 vasche in cui ospitare e curare altrettante tartarughe grazie alla presenza di un laboratorio veterinario specializzato 24 ore su 24. L'apertura di quello che sarà il quartier generale della Fondazione Cetacea è auspicato per Pasqua o al più tardi inizio giugno 2023. Il centro non sostituirà, ma si aggiungerà a quello di Riccione per potenziare anche la capacità di salvataggio degli animali marini che sempre di più sono a rischio nell'Alto Adriatico, vittime per lo più degli effetti della pesca a strascico. Continueremo a monitorare sperando che il progetto arrivi davvero a vedere la luce. Animali marini, ma andiamo adesso in Costa Rica, dove per proteggere il pesce sega, una specie rara in grave pericolo di estinzione, già scomparsa in diverse parti del mondo, è stata finalmente vietata la caccia e la cattura in mare. Vengono introdotte quindi sanzioni economiche e amministrative per chi contravviene a tali disposizioni. Ma la sensazione è che, come si dice, si chiuda la stalla dopo che i buoi sono scappati. Noi siamo chiaramente dalla parte dei buoi che scappano. Ma forse a proteggere i pesci dal rischio di estinzione bisognerebbe pensarci un po' prima. Il pesce sega è una specie d'acqua dolce e salata presente nel Pacifico, nei Caraibi e nel nord del Costa Rica. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, esistono al mondo 5 specie di pesce sega appartenenti alla famiglia delle razze, quindi pesci cartilaginei, e tutte queste specie sono in pericolo critico di estinzione. Il pesce sega che abita nei Caraibi può raggiungere i 6 metri di lunghezza, ha un rostro allungato a forma di sega, abita fiumi, zone umide, mangrovie e acque costiere ed è particolarmente vulnerabile a causa della distruzione dei suoi ecosistemi, soprattutto zone umide e mangrovie. Il problema, inoltre, è che questo pesce è considerato un trofeo da molti pescatori. Insomma, la pesca è incompatibile con la conservazione di tutta una serie di animali acquatici. Bisognerebbe fare una riflessione sulla utilità di questa attività e, laddove possibile, limitarla. Feel the sunshine on your face. Found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Abbiamo già più volte parlato della questione dei mufloni dell'isola del Giglio, in particolare con il nostro biologo di riferimento che si chiama Kim Bizzarri e che è intervenuto in molte delle nostre puntate precedenti su questo tema e altri. Purtroppo un comunicato dell'associazione LAV ci avvisa che i mufloni che vivono sull'isola del Giglio al di fuori dell'area del parco dell'arcipelago toscano diventeranno il bersaglio della sanguinaria passione di alcuni cacciatori. A seguito di un accordo sottoscritto a novembre scorso tra il parco, la LAV e il WWF, le uccisioni dei mufloni nell'area del parco sono state sospese e sono state sostituite da catture e traslocazioni in aree continentali interdette alla caccia. Però non c'è pace per i mufloni perché la regione ha predisposto un piano venatorio che prevede l'uccisione di 37 mufloni nelle zone al di fuori del parco. Una cosa che non è mai stata fatta negli anni precedenti. LAV e WWF hanno quindi chiesto la realizzazione di un'area faunistica protetta dedicata al muflone con il ripristino di un recinto che già preesisteva. Con una spesa contenuta, quella del ripristino della recinzione, i pochi esemplari di muflone dell'isola del Giglio potrebbero vivere in pace senza creare alcun fantomatico problema a biodiversità e agricoltura. Ci auguriamo che i mufloni, bellissimi animali tra l'altro vegetariani, possano continuare la loro vita, una vita pacifica, una vita cruelty free. Questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free ai mufloni dell'isola del Giglio. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta il nesso? Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Torniamo nuovamente a parlare dei mufloni ed immancabile arriva un'altra ricetta gigliese, lo scaveccio. Presentato in chiave vegetale, perché noi, gli animali, preferiamo lasciarli vivere. Scaveccio di tofu. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di tofu, 2 fogli di alga nori, 100 g di farina di ceci, 100 g di farina di riso, 2 cipolle rosse, 40 g di uetta, un bicchiere di aceto di vino bianco, rosmarino, salvia, peperoncino, 2 spicchi di aglio, olio extravergine di oliva, olio per friggere e sale. Mettete l'uvetta a mollo nell'aceto di vino bianco. Nel frattempo preparate una pastella con la farina di ceci e 50 g di farina di riso. Stemperate le farine con acqua fino ad ottenere una pastella liscia abbastanza cremosa. Tagliate il tofu a pezzetti e avvolgetene un lato con un foglio di alganori. Per facilitare l'operazione potete spennellare l'alga con poca acqua, facendo una leggera pressione affinché l'alga si attacchi. Passate ogni pezzo nella farina di riso, quindi immergete nella pastella. Fate scolare la pastella in eccesso e immergete nell'olio bollente. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. A parte, pulite e affettate le cipolle e fatele scottare in una casseruola con poca acqua e quando questa sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine, l'aglio tritato finemente, il peperoncino e fate rosolare qualche minuto. Unite la salvia e il rosmarino, scolate l'uvetta conservando l'aceto e unitela al resto. Fate cuocere ancora qualche minuto e bagnate con l'aceto. Lasciate 5 minuti a ritirare sul fuoco, quindi spegnete la fiamma. Adagiate i filetti di tofu in una pirofila e coprite con la salsa. Aggiungete un pizzico di sale marino e lasciate marinare per qualche ora. Servite freddo. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo dei quali, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per chiudere, una notizia di tipo letterario. Arriva in libreria L'ultimo orso, vincitore del Children's Book Prize 2022. A firmare questo esordio, più venduto in Inghilterra lo scorso anno, è Anna Gold. Il suo libro parla di una ragazzina che incontra un orso polare superstite, affamato, ferito e impaurito, diventandone amica e soprattutto alleata. Sullo sfondo di una Norvegia lontana, L'ultimo orso, libro delle edizioni Salani, è una storia di coraggio e di libertà per riflettere sulla minaccia ambientale, che viene raccontata attraverso gli occhi di una ragazzina che ci ricorda il potere e il dovere di lottare insieme agli altri animali, alle altre specie viventi, minacciate come più di noi dal cambiamento climatico. L'autrice, Anna Gold, è cresciuta in una famiglia dove i libri, gli animali e il rispetto per l'ambiente erano sempre presenti. Dopo aver lavorato per anni per il cinema, ha deciso di dedicarsi alla scrittura, il suo sogno di bambina. Oggi vive nel Regno Unito insieme a una tartaruga, un gatto e suo marito. L'ultimo orso è il suo primo libro per ragazzi. Questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 663 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.